Avevamo detto che avremmo parlato con questo nostro caro carissimo compagno che quella notte stava proprio di 25 anni fa, si trovava proprio a Berlino, ma tu stavi proprio sopra il muro, in piedi sopra il muro, o ricordo male? No, sì, sono delle... Intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Sì, ero sopra il muro insieme a Lily Gruber che faceva un servizio per la Rai. Che emozione! Diciamo, a quel tempo era una delle giornaliste più attente, insomma, quindi non avevo l'attenzione per valutare lei in quel momento, ero assolutamente attratto da altre cose. Però devo dire, diciamo, che prima di essere sul muro ero lì per conto della radio. La radio seguiva già da tempo quelle che ricorderete erano quelle che venivano definite le pressioni sulle frontiere, la Polonia, la ex Cecoslovacchia, con questo grande numero di persone che spingeva per entrare in Germania. E la redazione, in una riunione di redazione, avemmo la ottima idea di andare a seguire quelle che erano i movimenti che anticipavano l'apertura del muro, e nello specifico andammo a visitare in una chiesa all'est quella che al tempo era questa organizzazione che si chiamava Neues Forum, che era una organizzazione ombrello che, diciamo, che teneva sotto di sé dai cattolici, dalla sinistra, i movimenti punk. Veramente era una insieme, diciamo, rappresentava una, in maniera collettiva, le varie forme di protesta che in quel periodo si esercitavano. E appunto facemmo questa andammo in questa chiesa la mattina, passammo la frontiera ancora sotto Alexanderplatz intorno alle 8:30 e tutto il giorno. Come l'avete passata la frontiera? Perché appunto pure questi sono ricordi, no, che vale la pena riproporre. No, la passammo ovviamente mostrando i documenti, era ancora... C'erano ancora i Vopos, insomma. Sì, sì, era assolutamente Vopos, perché poi la, diciamo, la questura avvenne la sera intorno alle 23:30, per cui per quella giornata il funzionamento della frontiera era assolutamente normale come era stato negli anni e nei giorni precedenti. E quindi arrivammo in questa chiesa, la Kurkirchen, non mi ricordo bene qual era, e insomma trovammo questa chiesa occupata da una serie di banchetti, di una affluenza di gente veramente assurda, in quantità enormi, che provenivano dai posti più diversi del paese, con una forma di attivismo assolutamente visibile, iniziative, agitazioni. E appunto realizziamo questa giornata di interviste, dopodiché prendiamo una pausa, prendiamo l'occasione per visitare i quartieri assolutamente vicino alla frontiera e vicino a questa chiesa, e mangiamo, e nel corso del pomeriggio realizziamo altre interviste che avremo poi utilizzato successivamente in radio, e passammo ancora alla frontiera per ritornare indietro intorno alle 18:30 della sera, e a casa arrivammo per poco prima di fare una doccia, la radio annunciò l'apertura per la mezzanotte di queste frontiere, e ovviamente lì iniziò una situazione assolutamente particolare che, per quello che riguarda, durò 3 giorni uno appresso all'altro, perché uscimmo intorno alle 11:00, ci fermo a Checkpoint Charlie, che era quello più vicino al posto dove abitavamo, e da lì iniziò questo evento storico clamoroso che ci coinvolse emotivamente. Sono stati... Senti, due cose volevo chiederti. Una, proprio perché io mi ricordo, insomma, ero qui in radio, no? Almeno la prima sera, proprio la telefonata intorno alle mezzanotte di questa inizio di crollo, diciamo così, che però... se io ricordo bene, e questa era la cosa che ti volevo chiedere, già nei giorni precedenti, insomma, c'era stato un allentamento dei controlli, qualcosa si avvertiva, no? Adesso non si sapeva esattamente quando, ma sì. Qualcosa. Sì, no, appunto, come ti dicevo, insomma, io intanto ricordo, devo dire, la radio mi ha offerto la possibilità di essere presenti in uno dei fatti più importanti anche, diciamo, nell'evoluzione politica mia personale. L'intuizione fu appunto quella di comprendere che questa pressione alle frontiere verso la Germania non doveva durare così a lungo, perché la gente che voleva entrare proveniva da diversi paesi. Ho ricordato appunto le due frontiere, Polonia e ex Cecoslovacchia, e quindi andammo, quindi era evidente che da lì a poco sarebbe accaduto sicuramente qualcosa. Nessuno poteva immaginare, tantomeno noi, che sarebbe accaduto nei giorni in cui eravamo presenti noi a Berlino. Voglio essere anche un po' più preciso: la notte che telefonammo, io telefonai da una cabina. Era proprio quello che ti volevo chiedere, perché per i giovani di oggi i telefonini non c'erano, fa una corrispondenza del genere non era facile. No, assolutamente. Tra l'altro io sapevo che tu eri in radio, perché poi durante la trasmissione, ma in realtà la trasmissione, ricordo perfettamente che il 9 dell'89 era un giovedì, e lo ricordo perfettamente perché, come tu saprai, avevamo sperimentato da poco questa esperienza di rumori molesti, queste trasmissioni musicali che realizzavamo durante la sera, e il giovedì sera c'era questa trasmissione che molti, magari anche che ascoltano la radio adesso, ricordano perfettamente, che era The Other Voices, e loro ebbero, così come dire, l'onore di ricevere e l'importanza di ricevere questa telefonata che annunciava appunto l'apertura del muro durante questa trasmissione. Sì, era una cabina. Sono stato un paio di mesi fa a Berlino, ma la cabina è ancora lì, non so se è stata un cimelio. Beh, sì, ci vuole una targa, però da qui parlò il corrispondente di Radio Onda Rossa. Sì. Te lo meriteresti. Sì, oggi andare a Checkpoint Charlie, insomma, è un elemento assolutamente commerciale, che ha ceduto i suoi significati a aspetti veramente più commerciali, e in qualche maniera anche la riproposizione spettacolare non dà assolutamente la misura di quello che erano quei giorni, ma in qualche maniera per forma turistica, credo, come anche un grande incasso per il governo tedesco. Oggi è una cosa che sta lì, puoi fare le tue foto con i soldati, hanno ricreato una piccola parte della frontiera, ma diciamo sono situazioni assolutamente impensabili. Io devo dire, veramente per me è stato un al cuore, anche una possibilità di camminare velocemente, anticipando i tempi della tensione politica dei fatti, che in quel caso poteva essere affidata a me personalmente, ma anche ai collettivi. A quel tempo ero compagno dell'autonomia operaia, e quindi anche diciamo le valutazioni collettive, le esperienze politiche, le valutazioni soprattutto politiche non rappresentavano assolutamente quello che io ho avuto la fortuna di vivere, che mi ha consentito di comprendere molto meglio quelli che sono stati gli sviluppi politici del tempo, con una serie di riporti anche nel presente di oggi. Questa è la verità. Senti, oggi, giusto che mentre ne abbiamo parlato un po' in rassegna stampa, dicendo che poi avremmo fatto questo collegamento con te, e c'è un articolo, insomma, da leggere di Luciana Castellina sul Manifesto, che dice, a parte i ricordi, le riflessioni sul passato eccetera eccetera, sull'oggi dice: beh, a 25 anni di distanza però non è che è andato poi tutto bene, cioè i tedeschi dell'est sono ancora una sottocategoria, insomma le differenze tra l'est e l'ovest si sono quasi accentuate per certi versi, insomma, quindi ci sono indubbiamente da quei giorni in cui io ricordo, insomma, anche noi eravamo contenti, non perché fosse finito di per sé l'idea del socialismo sovietico o cose di questo tipo, e quindi i muri che crollavano e così via, quanto perché era un atto, penso, no, liberatorio, proprio di una situazione che ormai era insostenibile da tanti punti di vista, insomma. Poi certo le cose sono andate diversamente, ecco, volevo chiederti un po' anche di questi aspetti. Diciamo, chi sapeva leggere di economia a quel tempo, ma già dai primi, ho detto, noi uscimmo il giovedì sera alle 23, siamo ritornati a casa la domenica successiva alle 7 di sera, perché quello che appariva ai nostri occhi era assolutamente, credo, irripetibile. Ogni cosa era frutto di grandi riflessioni, si passava da elementi di gioia o elementi di confusione. Davanti alla mia casa c'erano fissi 4 chilometri di fila per entrare nella metropolitana a Colli Zerbano fino a Coldbusser Tor, esattamente nel cuore del quartiere di Kreuzberg. Ma dicevo, chi sapeva in qualche maniera leggere di economia, già la decisione pochi giorni dopo l'apertura del governo dell'Ovest di corrispondere dietro presentazione dei documenti 100 marchi ad ogni abitante dell'Ovest poteva far immaginare quanto principalmente erano molto interessati all'apertura dei mercati. E non a caso, diciamo, il mercato dell'Est ha rappresentato uno dei punti di forza di quella che è anche la condizione economica attuale della Germania adesso cosiddetta riunificata. Per lunghi anni poi io questa mia frequentazione con Berlino è proseguita, prosegue tuttora, quindi diciamo ho volutamente approfondito quelli che sono stati gli elementi, e in alcuni degli anni successivi, diciamo, molta gente dopo aver vissuto l'euforia dell'apertura sosteneva anche che fosse meglio ritornare a un muro ripristinato, anche se, ma questo appunto per indicare la differenza sostanziale che veniva ancora esercitata nei confronti dei due popoli. Basterebbe ricordare che subito dopo l'unificazione, che ne so, posso fare l'esempio dei lavoratori delle poste, i lavoratori delle poste all'Ovest continuavano a prendere 400 marchi in più dei lavoratori delle poste nella DDR, oppure l'anno dopo. Ma ancora oggi è così, i salari sono diversi, c'è un 30% di differenza tra l'Est e l'Ovest. Diciamo, questo è una cosa che non so realmente, ne ho sentito parlare, non so affermare se sia vero o meno, ma a quel tempo, diciamo, rispondeva a una esigenza economica di rientrare delle spese, di lucrare su quello che era stata le spese per l'apertura, e l'apertura dei mercati fece sì che in un territorio ancora deserto, dove non erano consentiti le attività pubbliche, dove non era consentito avere una macchina privata, la macchina, prendevi la Trabant a due tempi dopo 10 anni. Io la volevo comprare, me l'hanno impedito, guarda, la volevo comprare una Trabant. Sì, diciamo 6 mesi dopo per esempio era già difficilissimo trovarli, perché tu andavi nei quartieri dell'Est e vedevi questi quartieri invasi da taxi nuovissimi che non circolavano perché ovviamente non c'erano clienti, e queste promozioni sui divani, sulle televisioni, sulle mobilio. L'apertura del mercato dell'Est è stata una fortuna inestimabile per il governo della Germania. Sì. È proprio così. Sì. Senti, e dunque un'ultima cosa, diciamo 3 giorni particolari, come ricordavi, di diciamo anche festeggiamenti, ma non solo, poi credo la discussione le discussioni erano tantissime, e diciamo l'aspetto più significativo che tu, o il momento più significativo che ti ricordi di quei giorni là, insomma, particolari, vissuto proprio, se posso dirlo, da Occidente, no? Quindi dai compagni che a Berlino Ovest comunque erano presenti, gli Autonomen, non mi ricordo se già si chiamavano così, ma mi sembra di sì, no? Sì, ma io, diciamo, tu sai, io sono stato anche nell'esperienza politica che abbiamo condiviso lontano dalle sorti del socialismo sovietico, e in qualche maniera devo dire che la cosa che mi ha colpito e che è rimasta è stata il grande afflusso di persone di ogni età, che a differenza di quello che accade per noi, che sono atteggiamenti che riconosciamo nei bambini o nelle donne, diciamo questa curiosità di apertura come se fosse una finestra sul mondo. L'altra, una delle cose che mi colpì di più è che quei giorni contemporaneamente all'apertura, questo flusso di centinaia di milioni di migliaia di persone che entravano nei confini del, diciamo, il movimento organizzava spesso delle manifestazioni appunto per cercare di far verità su quelle che erano le mire economiche del governo centrale dell'Ovest, e quindi c'erano queste manifestazioni a Zoologist, che è uno dei dei centri commerciali più importanti e più frequentati, il centro, il cuore commerciale delle attività delle banche di Berlino, dove c'erano queste manifestazioni, e siccome le manifestazioni tedesche tendono a riflettere un po' come partecipanti appunto coloro che appartengono a diverse esperienze politiche, non posso dimenticare quanto tu eri in mezzo alla strada con queste bandiere dei vari movimenti stalinisti, maoisti, e queste centinaia di migliaia di persone sui marciapiedi a tracci. Mi sono un po' sentito mi sono sempre sentito, ricordo questa sensazione di essere un po' una scimmia dentro la gabbia con una serie di spettatori che mi guardano, ma era un elemento di confusione totale, diciamo, i peep show o questi negozi con caratteristiche di falsa, di sessualità commercializzata, erano posti dove tu vedevi famiglie intere, nonna, nonne, entravano tutti dentro, c'era questa, così vedere questo mondo che si appariva a loro per la prima volta, e, diciamo, l'elemento dei tre giorni, oppure le file con i documenti davanti alle banche la notte per prendere questi 100 marchi, o la furbizia dei movimenti degli autonomi tedeschi, che immaginando quello che sarebbe, alcuni si sono arricchiti o hanno destinato le somme raccolte ai prigionieri politici, all'organizzare tipografie del movimento, perché già da quando qualcuno metteva da parte i famosi marchi dell'est, il cambio fu da 1 a 10 e potevi cambiarli successivamente, e incassarono veramente migliaia e migliaia di euro, migliaia e migliaia di marchi dell'ovest. È un elemento assolutamente di confusione che ho visitato anche e cercato di approfondire negli anni successivi, e che mi ha dato la possibilità di comprendere meglio quanto intanto il meccanismo della libertà individuale, la possibilità dello spostamento, decidere dove andare, sia un elemento irrinunciabile per la vita delle persone, che conseguentemente questa libertà possa anche consentire alle persone di fare passaggi in avanti in maniera non forzata, partendo dalle proprie forze, dal proprio ragionamento, che sicuramente in quel periodo, appunto, ma la storia poi ci ha dato la possibilità di comprendere meglio quanto alcune forme di comunismo o di socialismo fossero appunto molto lontane dal nostro punto di vedere, che partì appunto da un elemento di libertà assolutamente radicata nei cuori e nelle nostre teste, insomma, senza fare troppa enfasi su quei fatti. Questi sono gli elementi che mi hanno incuriosito, che mi hanno consentito di approfondire questa storia, e devo dire la cosa più importante è che mi hanno anche consentito di vivere al meglio la mia esperienza politica in Italia, insomma, perché sono stati elementi importanti che in qualche maniera ti dicono quale anche è la strada migliore da proseguire, e gli elementi invece che devi assolutamente evitare di percorrere appunto nei confronti dei diritti e della libertà delle genti, delle popolazioni. Sì, va bene, ricordo anche che la radio, poi, a parte che i rapporti, come dicevi te, sia personali sia politici, sono continuati negli anni con i compagni e le compagne tedesche, la radio l'anno dopo andò a un convegno europeo proprio nella Germania dell'Est, e lì si incontrarono non solo compagni e compagne dell'est e dell'ovest, ma insomma tutta una serie di compagni e compagne che venivano da altri paesi europei, e fu una riunione molto molto interessante a cui appunto partecipammo. Sì, diciamo che abbiamo parlato della politica in generale, certo che questi episodi, quello che è successo all'89 in poi, è stato anche un elemento importante per lo stesso movimento berlinese, per poter comprendere e correggere in alcuni casi gli errori commessi. Poi una sorta di condivisione europea delle sorti dei movimenti fa sì che oggi credo siano come noi, credo, come appunto la condizione di dover riflettere qual è l'agibilità politica dei movimenti oggi, ma credo che quell'esperienza sia stata assolutamente fondamentale per noi. Non riesco a comprendere quale possa essere per noi qui in Italia un'esperienza così forte come ha rappresentato per loro, perché si è trattato, al di là dell'enfatizzazione degli interessi economici di chi l'ha provocata o manipolata, diciamo, rappresenta una delle cose più importanti appunto negli ultimi 25 anni, questo credo che non ci sia dubbio. Certo. D'accordo, se non hai da aggiungere altro, noi non possiamo che ringraziarti tantissimo. Vi ringrazio anche perché questo ho sempre presente elemento appunto come la mio arricchimento personale, ma insomma ricordarlo insieme a voi è assolutamente piacere. Certo. E quindi vi ringrazio anche per noi, e quindi grazie Dante, un abbraccio, anche... ciao Giorgio, ciao Antonella, a presto, ciao. E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ri